Lontano, terza parte, dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Lontano, terza parte. Capitolo 7. Ma che non fosse stupido, lo sapeva bene padron di Nica, dal modo con cui gli disimpegnava le commissioni e gli affari con quei ladri agenti di Tunisi e di Malta. Non voleva dirlo, al solito, non per negare il merito e la lode, ma per le conseguenze della lode, ecco. Credette, tuttavia, di dimostrargli largamente quanto fosse contento di lui con l'accordargli 10 giorni di licenza nell'occasione del matrimonio. Pochi 10 giorni? Ma bastano, caro mio, disse a Don Pietro che se ne mostrava malcontento. Vedrai in 10 giorni che bel figliuolo maschio ti mettono su. Potrei al massimo concedere che, rimbarcandosi, si porti la sposa a Tunisi e a Malta, per un viaggetto di nozze. È un giovane serio, mi fido, ma non potrei di più. Spiritò alla proposta di Don Pietro di far da testimonio nelle nozze. Non per quel buon giovine, capirai. Ma se, Dio liberi, mi ci provassi una volta, non farei più altro in vita mia. Niente, niente, caro Pietro. Manderò alla sposa un regaluccio, in considerazione della nostra antica amicizia. Ma non lo dirà nessuno, mi raccomando. Dal canto suo, la zia donna Rosolina si strizzò in petto il buon cuore che Dio le aveva dato e venne fuori con un altro regaluccio a Venerina, un paio d'orecchini a pendaglio del 1005. Faceva vero la finezza di offrire agli sposi, per quei 10 giorni di luna di miele, la sua campagna sotto il monte Cioccafa. Purché la mobilia, mi raccomando. Camminavano sole quelle 4 seggiole sgangherate, a chiamarle col frullo delle dita, dai tanti tarli che le popolavano. E il tanfo di rinchiuso in quella decrepita stamberga, perduta tra gli alberi lassù, era insopportabile. Subito Venerina, arrivata in carrozza con lo sposo e i due zii, dopo la celebrazione del matrimonio, corse a spalancare tutti i balconi e le finestre. «Le tende! I cortinaggi!» strillava donna Rosolina, provandosi a correre dietro l'impetuosa nipote. «Lasci che prendano un po' d'aria! Guardi, guardi come respirano! Ah, che delizia!» «Sì, ma con la luce perdono il colore!» «Non sono di broccato, zia!» Quell'oretta passata lassù con gli sposi fu un vero supplizio per donna Rosolina. Soffrì nel veder toccare questo o quell'oggetto, come se si fosse sentita strappare quei mezzi ricci unti di tintura che le virgolavano la fronte. Soffrì nel vedere entrare coi pesanti scarponi ferrati la famiglia del Garzone per porgere gli omaggi agli sposini. Stava quel Garzone a guardia del podere e abitava con la famiglia nel cortile acciottolato della villa, con la cisterna in mezzo, in una stanzaccia buia, casa e stalle insieme. Perplesso se avesse fatto bene o male, recava in dono un paniere di frutta fresche. Lars Cleen contemplava stupito quegli esseri umani che gli parevano d'un altro mondo, vestiti a quel modo, così anneriti dal sole. Gli parevano siffattamente strani e diversi da lui, che si meravigliava poi nel veder loro batter le palpebre, come egli le batteva, e muovere le labbra, come egli le muoveva. Ma che dicevano? Sorridendo, la moglie del Garzone annunziava che uno dei 5 figliuoli, il secondo, aveva le febbri da 2 mesi e se ne stava lì, sullo strame, come un morticino. «Non si riconosce più, figlio mio». Sorrideva non perché non ne sentisse pena, ma per non mostrare la propria afflizione mentre i padroni erano in festa. «Verrò a vederlo», le promise Venerina. «Nonsi, che dice, voscenza?» esclamò angustiata la contadina. «Ci lasci stare, noi poveretti. Voscenza goda. Che bello sposo! Ci crede che non ho il coraggio di guardarlo». «E me?» domandò Don Paranza. «Non sono bello io. E sono pure sposo, oh, di donna Rosolina. 2 coppie!» «Zitto là!» gridò questa, sentendosi tutta rimescolare. «Non voglio che si dicano neppure per ischerzo certe cose». Venerina rideva come una matta. Sul serio!» protestava Don Pietro. E insistette tanto su quel brutto scherzo per far festa alla nipote che la zitellona non volle tornarsene sola con lui in carrozza al paese. Ordinò al garzone che montasse in cassetta accanto al cocchiere. «Le male lingue, non si sa mai. Con un mattaccio come voi. Ah, cara donna Rosolina, che ne volete più di me ormai? Non posso farvi più nulla io, le disse don Pietro in carrozza, di ritorno, scuotendo la testa e soffiando per il naso un gran sospiro, come se si sgonfiasse di tutta quell'allegria dimostrata alla nipote. Vorrei aver fatto felice quella povera figliuola. Gli pareva di aver raggiunto ormai lo scopo della sua lunga, travagliata, scombinata esistenza. Che gli restava più da fare, ormai? Mettersi a disposizione della morte, con la coscienza tranquilla, sì, ma angosciata. Altri 4 giorni di noia, e poi lì. La carrozza passava vicino al camposanto, aereo sull'altipiano che rosseggiava nei fuochi del tramonto. Lì, e che ho concluso. Donna Rosolina accanto a lui, con le labbra appuntite e gli occhi fissi, acuti, si sforzava di immaginare che cosa facessero in quel momento gli sposi, rimasti soli, e dominava le smanie da cui si sentiva prendere e che si traducevano in acre stizza contro quell'omaccio, ormai vecchio, che le stava a fianco. Si voltò a guardarlo, lo vide con gli occhi chiusi. Credette che dormisse. Su, su, a momenti siamo arrivati. Don Pietro riaprì gli occhi rossi di pianto contenuto e brontolò. Lo so, sposina. Penso ai gronghi di questa sera. Chi me li cucina? Capitolo 8. Superato il primo impaccio, vivissimo, dell'improvvisa intrinsechezza più che ogni altra intima, con un uomo che le pareva ancora quasi piovuto dal cielo, Venerina prese a proteggere e a condurre per mano, come un bambino, il marito incantato dagli spettacoli che gli offriva la campagna, quella natura per lui così strana e quasi violenta. Si fermava a contemplare a lungo certi tronchi enormi, stravolti, d'olivi, pieni di groppi, di sproni, di giunture storpie, nodose, e non rifiniva ad esclamare: il sole, come se in quei tronchi vedesse viva, impressa, tutta quella cocente rabbia solare, da cui si sentiva stordito e quasi ubriacato. Lo vedeva dappertutto, il sole, e specialmente negli occhi e nelle labbra ardenti e succhiose di Venerina, che rideva di quelle sue meraviglie e lo trascinava via, per mostrargli altre cose che le parevano più degne d'esser vedute, la grotta del Cioccafa, per esempio. Ma egli si arrestava, quando ella se l'aspettava meno, davanti a certe cose per lei così comuni. Ebbene, fichi d'India, che stai a guardare? Proprio un fanciullo, le pareva, e gli scoppiava a ridere in faccia, dopo averlo guardato un po', così allocchito per niente. E lo scoteva, gli soffiava sugli occhi, per rompere quello stupore che talvolta lo rendeva attonito. Svegliati, svegliati! E allora egli sorrideva, l'abbracciava e si lasciava condurre, abbandonato a lei come un cieco. Ricadeva sempre a parlarle, con le stesse frasi d'orrore, della famiglia del Garzone, a cui entrambi avevano fatto la visita promessa. Non si poteva dar pace che quella gente abitasse lì, in quella stanzaccia che era divenuta quasi una grotta fumida e fetida, e invano Venerina gli ripeteva: Ma se togli loro l'asino, il porcellino e le galline dalla camera, non vi possono più dormire in pace. Devono star lì tutti insieme. Fanno una famiglia sola. Orribile, orribile! Esclamava egli, agitando in aria le mani. E quel povero ragazzo, lì, sul pagliericcio per terra, ingiallito dalle febbri continue e quasi scheletrito, lo curavano con certi loro decotti infallibili. Sarebbe guarito, come erano guariti gli altri. E intanto, il poverino, che pena! Se ne stava a rosicchiare, svogliato, un tozzo di pan nero. «Non ci pensare», gli diceva Venerina, che pur se ne affliggeva, ma non tanto, sapendo che la povera gente vive così. Credeva che dovesse saperlo anche lui, il marito, e perciò, nel vederlo così afflitto, sempre più si raffermava nell'idea che gli fosse di una bontà non comune, quasi morbosa, e questo le dispiaceva. Passarono presto, quei 10 giorni in campagna. Ritornati in paese, Venerina accompagnò fino al vaporetto il marito, ma non volle imbarcarsi con lui per il viaggio di nozze concesso dal di Nica. Don Pietro ve la spingeva. Vedrai Tunisi, che quei cari nostri fratelli francesi, sempre aggraziati, ci hanno presa di furto. Vedrai Malta, dove tuo zio bestione andò a rovinarsi. Magari potessi venirci anch'io. Vedresti di che cuore mi schiaffeggerei se mi incontrassi con me stesso per le vie di La Valletta, com'ero allora. Giovane patriota imbecille. No, no, Venerina non volle saperne. Il mare le faceva paura e poi si vergognava in mezzo a tutti quegli uomini. E non sei con tuo marito, insisteva Don Pietro. Tutte così le nostre donne. Non debbono far mai piacere ai loro uomini. Tu che ne dici? Domandava al Cleen. Non diceva nulla lui. Guardava Venerina col desiderio di averla con sé, ma non voleva che ella facesse un sacrificio o che avesse veramente a soffrire del viaggio. Ho capito, concluse Don Paranza. Sei un gran babbalacchio. Lars non comprese la parola siciliana dello zio, ma sorrise vedendo riderne tanto Venerina. E poco dopo partì solo. Appena si fu allontanato dal porto, dopo gli ultimi saluti col fazzoletto alla sposa che agitava il suo dalla banchina del molo, e ormai quasi non si distingueva più, egli provò istintivamente un gran sollievo, che pur lo rese più triste a pensarci. S'accorse ora, lì, solo davanti allo spettacolo del mare, d'aver sofferto in quei 10 giorni una grande oppressione nell'intimità pur tanto cara con la giovane sposa. Ora poteva pensare liberamente, espandere la propria anima senza dover sforzare il cervello a indovinare, a intendere i pensieri, i sentimenti di quella creatura tanto diversa da lui e che tuttavia gli apparteneva così intimamente. Si confortò, sperando che col tempo si sarebbe adattato alle nuove condizioni d'esistenza. Si sarebbe messo a pensare, a sentire come Venerina, o che questa, con l'affetto, con l'intimità, sarebbe riuscita a trovar la via fino a lui per non lasciarlo più solo, così, in quell'esilio angoscioso della mente e del cuore. Venerina e lo zio, intanto, parlavano di lui nella nuova casetta, in cui anche Don Pietro aveva preso stanza. Sì, diceva lei sorridendo, è proprio come tu hai detto. Babbalacchio? Minchione? Domandava Don Paranza. Va là, è buono, è buono. È buono che significa, zio? Osservava sospirando Venerina. Questo è vero, riconosceva Don Pietro. Infatti, i birbaccioni oggi si chiamano uomini accorti e tuo zio per il primo li rispetta. Ma speriamo che l'aria del nostro mare, che deve essere, sai, più salato di quello del suo paese, gli giovi. Ho gran paura anch'io, però, che somigli troppo a me, quanto a giudizio. Gli si era affezionato lui, Don Pietro, ma non si proponeva, neppure per curiosità, di cercar di indovinare come egli la pensasse, né gli veniva in mente di consigliarlo a Venerina. Vedrai, anzi le diceva, vedrai che a poco prenderà gli usi del nostro paese. Testa ne ha. Prima di partire, il Cleen aveva suggerito a Venerina di non lasciare andar più il vecchio zio alla pesca. Ma Don Pietro non solo non volle saperne, ma anche s'arrabbiò. Non sapete più che farvene, adesso, dei miei gronghi? Bene, bene, me li mangerò io solo. Non è per questo, zio, esclamò Venerina. E allora volete farmi morire? Riprese Don Paranza. C'era ai miei tempi un povero contadino che aveva 95 anni e ogni santa mattina saliva dalla campagna a Girgenti con una gran cesta d'erbaggi sulle spalle. E andava tutto il giorno in giro per venderli. Lo videro così vecchio, ne sentirono pietà, pensarono di ricoverarlo all'ospedale e lo fecero morire dopo 3 giorni. L'equilibrio, cara mia. Toltagli la cesta dalle spalle, quel poveretto perdette l'equilibrio e morì. Così io, se mi togliete la lenza. Gronghi anda a essere. Stasera e domani sera e finché campo. E se ne andava con gli attrezzi e col lanternino alla scogliera del porto. Sola, Venerina, si metteva anche a pensare al marito lontano. Lo aspettava con ansia, sì, in quei primi giorni, ma non sapeva neppur desiderarlo altrimenti che così. 2 giorni in casa e il resto della settimana fuori. 2 giorni con lui e il resto della settimana sola ad aspettare ogni sera che lo zio tornasse dalla pesca. Poi la cena. E poi a letto, sì, sola. Si contentava? No. Neppure lei, così. Troppo poco. E restava a lungo assorta in una segreta aspettazione, che pure le ispirava una certa ambascia, quasi di sgomento. Quando? Capitolo 9. «Ih, che prescia!» esclamò Don Paranza, appena si accorse delle prime nausee, dei primi capogiri. «Lo previde quel boia d'Agostino! Di un po', hai avuto paura che tuo zio non ci arrivasse a sentire la bella musica del gattino?» Zio! Gli gridò Venerina, offesa e sorridente. Era felice, le era venuto il da fare in quelle lunghe sere nella casa sola. Cuffiette, bavaglini, fasce, camicine, e non le sere soltanto. Non ebbe più tempo né voglia di curarsi di sé, tutta in pensiero già per l'angioletto che sarebbe venuto, Dal cielo, zia Rosolina, dal cielo! Gridava la zitellona pudibonda, abbracciandola con furia e scombinandola tutta. E me lo terrà lei a battesimo, lei e zio Pietro. Donna Rosolina apriva e chiudeva gli occhi, mandava giù saliva, con l'angoscia nel naso, fra le strette di quella santa figliuola che pareva impazzita e non aveva nessun riguardo per tutti i suoi cerotti. Piano, piano, sì, volentieri, purché gli mettiate un nome cristiano. Io non lo so ancora chiamare tuo marito. Lo chiami Larso, come lo chiamano tutti, le rispondeva ridendo Venerina. Non me ne importa più adesso. Non le importava più di niente ora, non s'acconciava neppure pochino quando egli doveva arrivare. Rifatti un po' i capelli almeno, le consigliava donna Rosolina. Non stai bene così. Ormai, chi n'ha avuto, n'ha avuto. Così se mi vuole. E se non mi vuole, mi lasci in pace, tanto meglio. Era così esclusiva la gioia di quella sua nuova attesa che il cleen non si sentiva chiamato a parteciparne, come di gioia anche sua. Si sentiva lasciato da parte. E ne era lieto soltanto per lei, quasi che il figlio nascituro non dovesse appartenere anche a lui, nato lì in quel paese non suo, da quella madre che non si curava neppure di sapere quel che egli ne sentisse e ne pensasse. Lei aveva già trovato il suo posto nella vita. Aveva la sua casetta, il marito. Tra breve avrebbe avuto anche il figlio desiderato. E non pensava che lui, straniero, era sul principio di quella sua nuova esistenza e aspettava che ella gli tendesse la mano per guidarlo. Non curante o ignara, lei lo lasciava lì, alla soglia, escluso, smarrito. E ripartiva. E lontano per quel mare, su quel guscio di noce, si sentiva sempre più solo e più angosciato. I compagni, nel vederlo così triste, non lo deridevano più come prima, è vero, ma non si curavano di lui, proprio come se non ci fosse. Nessuno gli domandava: che hai? Era il forestiere. Chissà com'era fatto e perché era così. Non se ne sarebbe afflitto tanto, egli, se anche a casa sua, come lì sul vaporetto, non si fosse sentito estraneo. Casa sua? Questa? In quel borgo di Sicilia? No, no. Il cuore gli volava ancora lontano, lassù, al paese natale, alla casa antica, ove sua madre era morta, ove abitava la sorella, che forse in quel punto pensava a lui, e forse lo credeva felice. Capitolo 10. Una speranza ancora resisteva in lui, ultimo argine, ultimo riparo contro la malinconia che lo invadeva e lo soffocava. Che si vedesse, che si riconoscesse nel suo bambino appena nato e si sentisse in lui e con lui lì, in quella terra d'esilio, meno solo, non più solo. Ma anche questa speranza gli venne subito meno, appena guardato il figlioletto, nato da 2 giorni durante la sua assenza. Somigliava tutto alla madre. Nero nero, povero ninno mio, sicilianaccio. Gli disse Venerina dal letto, mentre lì lo contemplava deluso nella cuna. Richiudi la cortina, me lo farai svegliare. Non mi ha fatto dormire tutta la notte, poverino, alle dogliette. Ora riposa e io vorrei profittarne. Il cleen baciò in fronte, commosso, la moglie. Riaccostò gli scuri e uscì dalla camera in punta di piedi. Appena solo si premette le mani sul volto e soffocò il pianto irrompente. Che sperava? Un segno. Almeno un segno in quell'esseruccio, nel colore degli occhi, nella prima peluria del capo, che lo palesasse suo, straniero anche lui, e che gli richiamasse il suo paese lontano. Che sperava? Quand'anche non sarebbe forse cresciuto lì, come tutti gli altri ragazzi del paese, sotto quel sole cocente, con quelle abitudini di vita alle quali egli si sentiva estraneo, allevato quasi soltanto dalla madre, e perciò con gli stessi pensieri, con gli stessi sentimenti di lei. Che sperava? Straniero, straniero anche per suo figlio. Ora, nei 2 giorni che passava in casa, cercava di nascondere il suo animo. Né gli riusciva difficile, poiché nessuno badava a lui. Don Pietro se ne andava al solito alla pesca, e Venerina era tutta intenta al bambino, che non gli lasciava neppur toccare. Me lo fai piangere, non sai tenerlo. Via, via, esci un po' di casa. Che stai a guardarmi? Vedi come mi sono ridotta? Su, vai a fare una visita alla zia Rosolina, che non viene da 3 giorni. Forse vuol fatta davvero la corte, come dice zio Pietro. Ci andò una volta il cleen per far piacere alla moglie, ma ebbe dalla zitellona tale accoglienza che giurò di non ritornarci più, né solo né accompagnato. Solo, gnornò, gli disse donna Rosolina, vergognosa e stizzita, con gli occhi bassi. Mi dispiace, ma debbo dirvelo. nipote, capisco, siete mio nipote. Ma la gente vi sa forestiere, con certi costumi curiosi, e chissà che cosa può sospettare. Solo, gnor no. Verrò io più tardi a casa vostra, se non volete venire qua con Venerina. Si vide così, messo alla porta, e non seppe né poté riderne, come Venerina, quando egli le raccontò l'avventura. Ma se ella sapeva che quella vecchia era così fastidiosamente matta, perché spingerla a fargli fare quella ridicola figura? Voleva forse ridere anche lei alle sue spalle? «Non hai trovato ancora un amico?» gli domandava Venerina. «No». «È difficile, lo so. Siamo orsi, caro mio. Tu, poi, sei così, ancora come una mosca senza capo. Non ti vuoi svegliare? Va a trovare lo zio, almeno. Sta al porto. Tra voi uomini vi intenderete. Io sono donna e non posso tenerti conversazione. Ho tanto da fare». Egli la guardava, e gli veniva di domandarle: «Non mi ami più?» Venerina, sentendo che non si muoveva, alzava gli occhi dal cucito, lo vedeva con quell'aria smarrita e rompeva in una gaia risata. «Che vuoi da me? Un omaccione tanto che se ne sta in casa come un ragazzino, Dio benedetto. Impara un po' a vivere come i nostri uomini, più fuori che dentro. Non posso vederti così. Mi fai rabbia e pena». Fuori non lo vedeva, ma dall'aria triste con cui egli si disponeva a uscire, cacciato così di casa, come un cane caduto in disgrazia, avrebbe potuto argomentare come egli si trascinasse per le vie del paese in cui la sorte lo aveva gettato e che già egli odiava. Non sapendo dove andare, si recava all'agenzia del Dinica. Trovava ogni volta il vecchio dietro gli scritturali, col collo allungato e gli occhiali sulla punta del naso, per vedere che cosa essi scrivessero nei registri. Non perché diffidasse, ma chissà, si fa presto, per una momentanea distrazione, a scrivere una cifra per un'altra, a sbagliare una somma, e poi per osservare la calligrafia, ecco. La calligrafia era il suo debole, voleva i registri puliti. Intanto, in quella stanzetta umida e buia, a pian terreno, certi giorni alle 4 ci si vedeva a malapena, si dovevano accendere i lumi. «È una vergogna, padron di Nica, con tanti bei denari!» «Quali denari?» domandava il di Nica. «Se me li date voi!» «E poi, niente, qua ho cominciato, qua voglio finire!» Vedendo entrare il Cleen, si angustiava. «E mo, e mo, e mo!» gli andava incontro, col capo reclinato indietro per poter guardare attraverso gli occhiali insellati sulla punta del naso, e diceva: «Che cosa volete, figlio mio?» «Niente! E allora prendetevi una seggiola e sedete là, fuori della porta!» Temeva che gli scritturali si distressero davvero, e poi non voleva che colui sapesse gli affari dell'agenzia prima del viaggio. Il Cleen sedeva un po' lì, sulla porta. Nessuno dunque lo voleva? Già egli non portava più il berretto di pelo. Era vestito come tutti gli altri. Eppure ecco, la gente si voltava a osservarlo, quasi che egli si tenesse esposto lì, davanti all'agenzia. E a un tratto si vedeva girare innanzi sulle mani e sui piedi a ruota un monellaccio, che per quella bravura da pagliaccetto gli chiedeva poi un soldo. E tutti ridevano. «Che c'è, che c'è?» gridava padron di Nica, facendosi alla porta. «Teatrino, marionette!» I monellacci si sbandavano urlando, fischiando. «Caro mio», diceva allora il di Nica al Cleen, «voi lo capite, sono selvaggi. Andatevene, fatemi questo piacere». E il Cleen se ne andava. Anche quel vecchio, con la sua tirchieria diffidente, gli era venuto in uggia. Si recava sulla spiaggia, tutta ingombra di zolfo accatastato, e con un senso profondo d'amarezza e di disgusto assisteva alla fatica bestiale di tutta quella gente, sotto la vampa del sole. Perché coi tesori che si ricavavano da quel traffico non si pensava a far lavorare più umanamente tutti quegli infelici, ridotti peggio delle bestie da soma? Perché non si pensava a costruire le banchine sulle due scogliere del nuovo porto, dove si ancoravano i vapori mercantili? Da quelle banchine non si sarebbe fatto più presto l'imbarco dello zolfo, coi carri o coi vagoncini? «Non ti scappi mai di bocca una parola su questo argomento», gli raccomandò Don Paranza una sera, dopo cena. «Vuoi finire come Gesù Cristo? Tutti i ricchi del paese hanno interesse che le banchine non siano costruite, perché sono i proprietari delle spigonare che portano lo zolfo dalla spiaggia sui vapori. Bada, sai, ti mettono in croce». «Sì». E intanto sulla spiaggia nuda, tra i depositi di zolfo, correvano scoperte le fogne, che appestavano il paese. E tutti si lamentavano, e nessuno badava a provvedere d'acqua sufficiente il paese assetato. A che serviva tutto quel denaro con tanto accanimento guadagnato? Chi se ne giovava? Tutti ricchi e tutti poveri. Non un teatro, né un luogo o un mezzo di onesto svago, dopo tanto e così enorme lavoro. Appena sera, il paese pareva morto, vegliato da quei quattro lampioncini a petrolio. E pareva che gli uomini, tra le brighe continue e le diffidenze di quella guerra di lucro, non avessero neanche tempo di badare all'amore, se le donne si mostravano così svogliate, neghittose. Il marito era fatto per lavorare, la moglie per badare alla casa e far figliuoli. Qua, pensava il Cleen, qua tutta la vita. E si sentiva stringere la gola sempre più da un nodo di pianto. Capitolo 11. L'Hammerfest! Arriva l'Hammerfest! Corse ad annunziare a Venerina Don Paranza, tutto ansante. Ho l'avviso, guarda, arriverà oggi! E Lars è partito! Porco diavolo, chissà se farà a tempo a rivedere il cognato e gli amici! Scappò dal Dinica con l'avviso in mano. Agostino! L'Hammerfest! Il Dinica lo guardò, come se lo credesse ammattito. Chi è? Non lo conosco. Il vapore di mio nipote. E che vuoi da me? Salutamelo. Si mise a ridere, con gli occhi chiusi, d'una sua speciale risatina nel naso, sentendo le bestialità che scappavano a Don Pietro nel tumultuoso dispiacere che gli cagionava quel contrattempo. Se si potesse! Eh già! Gli rispose il Dinica. Detto fatto. Ora telegrafo a Tunisi e lo faccio tornare a rotta di collo. Non dubitare. Sempre grazioso sei stato, gli gridò Don Paranza lasciandolo in asso. Quanto ti voglio bene! E tornò a casa, a pararsi per la visita a bordo. Sull'Hammerfest, appena entrato in porto, fu accolto con gran festa da tutti i marinai compagni del Cleen. Egli, che per gli affari del viceconsolato se la sbrigava con quattro frasucce solite, dovette quella volta violentare orribilmente la sua immaginaria conoscenza della lingua francese per rispondere a tutte le domande che gli venivano rivolte a tempesta sul Cleen, e ridusse in uno stato compassionevole la sua povera camicia inamidata, tanto sudò per lo stento di far comprendere a quei diavoli che egli propriamente non era il suocero dell'arso, perché la sposa di lui non era propriamente sua figlia, quantunque come figlia l'avesse allevata fin da bambina. Non lo capirono, o non vollero capirlo. «Beau-père!» Beau-père! E va bene, esclamava Don Paranza. Sono diventato beau-père. Non sarebbe stato niente se in qualità di beau-père non avessero voluto ubriacarlo, nonostante le sue vivaci proteste. Je ne bois pas de vin. Non era vino. Chissà che diavolo gli avevano messo in corpo. Si sentiva avvampare. E che enorme fatica per far entrare in testa a tutto l'equipaggio che voleva assolutamente conoscere la sposina, che non era possibile così, tutti insieme. Il solo beau-frère, dov'è? Vuselma, venè, venè! E se lo condusse in casa. Il cognato non sapeva ancora della nascita del bambino. Aveva recato soltanto alla sposa alcuni doni, per incarico della moglie lontana. Era dispiacentissimo di non poter riabbracciare Lars. Fra 3 giorni l'Hammerfest doveva ripartire per Marsiglia. Venerina non poté scambiare una parola con quel giovine dalla statura gigantesca, che le richiamò vivissimo alla memoria il giorno che Lars era stato portato sulla barella, moribondo, nell'altra casa dello zio. Sì, a lui ella aveva recato l'occorrente per scrivere quella lettera all'abbandonato. Da lui aveva ricevuto la borsetta, e per averlo veduto piangere a quel modo, ella s'era presa tanta cura del povero infermo. E ora, ora Lars era suo marito, e quel colosso biondo e sorridente, chino sulla culla, suo parente, suo cognato. Volle che lo zio le ripetesse in siciliano ciò che egli diceva per il piccino. «Dice che somiglia a te», rispose Don Paranza. «Ma non ci credere, sai! Somiglia a me, invece!» Con quella porcheria che gli avevano cacciato nello stomaco, a bordo, se lo lasciò scappare Don Paranza. Non voleva mostrare il tenerissimo affetto che gli era nato per quel bambino, che gli chiamava gattino. Venerina si mise a ridere. «Zio, e che dice adesso?» gli domandò poco dopo, sentendo parlare lo straniero, suo cognato. «Abbi pazienza, figlia mia», sbuffò Don Paranza. «Non posso attendere a tutte e due». «Ah, oui, Larso, sì, dommage. Che rabbia, dice. E certo, non sarà possibile vederlo. Se il capitano, capisci? Già, già, oui. Engagement. Impegni commerciali, capisci? Il vapore non può aspettare». Eppure quest'ultimo strazio non fu risparmiato al Cleen. per un ritardo nell'arrivo delle polizze di carico, l'Hammerfest dovette rimandare d'un giorno la partenza. Si disponeva già a salpare da Porto Empedocle quando il vaporetto del Dinica entrò nel molo. Lars Cleen si precipitò su una lancia e volò a bordo del suo piroscafo, col cuore in tumulto. Non ragionava più. Ah, partire, fuggire coi suoi compagni, parlare di nuovo la sua lingua, sentirsi in patria, lì, sul suo piroscafo. Eccolo, grande, bello, fuggire da quell'esilio, da quella morte. Si buttò tra le braccia del cognato, se lo strinse a sé fin quasi a soffocarlo, scoppiando irresistibilmente in un pianto dirotto. Ma quando i compagni intorno gli chiesero, costernati, la cagione di quel pianto convulso, egli rientrò in sé, mentì, disse che piangeva soltanto per la gioia di rivederli. Solo il cognato non gli chiese nulla, gli lesse negli occhi la disperazione, il violento proposito con cui era volato a bordo, e lo guardò per fargli intendere che aveva compreso. Non c'era tempo da perdere. Suonava già la campana per dare il segno della partenza. Poco dopo, Lars Cleen dalla lancia vedeva uscire dal porto l'Hammerfest e lo salutava col fazzoletto bagnato di lacrime, mentre altre lacrime gli sgorgavano dagli occhi, senza fine. Comandò al barcaiolo di remare fino all'uscita del porto, per poter vedere liberamente il piroscafo allontanarsi man mano nel mare sconfinato e allontanarsi con lui la sua patria, la sua anima, la sua vita. Eccolo più lontano ancora, spariva. «Torniamo!» gli domandò, sbadigliando il barcaiolo. E gli accennò di sì, col capo. Fine della novella «Lontano». Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.